odori molesti. Esattamente, e chiaramente sgraditi. I tacchettini, esatto, il cane che abbaia. Io ho un casa. Vicino che ha un'aureola. È luminosissima. Però insomma è difficile perché non c'è il dolorimetro, non c'è il fastidiometro. E il pazientometro anche non c'è. Cambia orari per la trasmissione. Io l'ascolto di notte. Il vicino è mio nemico, non lo posso sopportare. In un modo o nell'altro io lo devo eliminare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dove cavolo sei stato? Ha pianto in continuazione, ha fatto anche un bisognino. Un bisognino? E di che tipo? No, no, no, non dirmelo, non lo voglio sapere. Devi saperlo perché va cambiata. Ma cos'è tutta quella roba che hai comprato? Sono dovuto andare in ben quattro posti. Ho comprato tre tipi diversi di preparati per il latte, omogenizzati, biscotti, due tipi di pannolini, biberon, salviette, tettarelle. E tu non hai idea di tutto quello che hanno bisogno i bambini. Ascolti, invece, hanno un'idea molto chiara di tutto ciò di cui hanno bisogno i bambini e di cui i protagonisti di questo film, Tre Scapoli e un Bebè, si rendono conto in modo un po' improvviso. Conciliare le esigenze personali come la necessità di accudire un bebè con il lavoro non è certo facile. Parleremo di questo oggi nella prima parte di Cuore e Denari. Perché? Perché il Jobs Act ha introdotto alcune novità, o meglio alcune modifiche, alla disciplina dei congedi parentali che già conoscevamo, e nelle scorse settimane è stato varato il decreto attuativo di questa parte della più ampia riforma del mercato del lavoro. Peccato che molte di queste misure abbiano solo un carattere sperimentale e valgano fino alla fine di quest'anno, per cui affrettatevi a chiedere questi permessi. Ne parleremo tra poco. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Raccontateci se c'è un bebè in arrivo a casa vostra. Avete già deciso come vi organizzerete con il lavoro? Ma sicuramente, Deborah, il congedo parentale permetterà di trascorrere più tempo con i figli. Tutti i genitori d'altronde lo desiderano. I figli, i nostri bambini, indipendentemente dalla loro età, anche per me sono le mie bambine, sono pezze core. Cosa c'è di meglio di stare con loro? Su questo non si discute, ma a dirla tutta, essere sinceri, gli adorabili angioletti sanno essere davvero insopportabili e hanno proprio una naturale propensione a dare il peggio di sé, un fiuto particolare a scegliere luogo, momento, situazione. Oggi parliamo di capricci, due esperti a nostra disposizione che ci aiuteranno a metterci nei panni dei nostri bambini per interpretare i loro bisogni. Anche i capricci sono un linguaggio, ma che ci auguriamo riescano anche a suggerire qualche trucco per fronteggiarle il più efficacemente possibile e, perché no, prevenirli. 800 24 0024. C'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare, da rifare. C'è da fare, c'è da fare, c'è da far da mangiare per un mondo. C'è da fare in famiglia, c'è da fare a casa, c'è da fare al lavoro, anche qua in radio non si scherza, e non è sempre possibile conciliare tra loro tutte queste attività. Mamme e papà all'ascolto lo sanno molto bene. Cuore Denari apre la settimana con un focus su uno degli argomenti a cui siamo più affezionati: lavoro e famiglia. Come conciliare le esigenze personali con quelle professionali? Perché ne parliamo? Perché, come ricordavamo poco fa, il Jobs Act ha introdotto, anzi ha modificato la disciplina dei congedi parentali che già conosciamo. Nelle scorse settimane è stato varato il decreto attuativo di questa parte della più ampia riforma del mercato del lavoro. Allora, che novità attendono mamme e papà all'ascolto che avrebbero bisogno di fruire di questi congedi? Cosa cambia rispetto alla disciplina preesistente? Come funzionano questi permessi speciali e cosa vuol dire che sono sperimentali per il 2015? 800 24 00 24, il numero verde a vostra completa disposizione per tutte le domande su questo tema. Oggi ci spiega tutto l'avvocato Gabriele Fava dello studio. Magari andrà anche allo stadio. Magari, certo, con i suoi figli, perché no? dello studio Fave Associati, esperto anche di lavoro per il Sole 24 Ore, firma tantissimi articoli. Ben ritrovato, buongiorno. Grazie, senz'altro porto i miei figli allo stadio. Quindi ci ho azzeccato a metà. Mi unisco anche qui. Tra l'altro, dicevo, firma molti articoli sugli argomenti del lavoro per il Sole 24 Ore. Sul tema di oggi però lo firma invece Valentina Melis. Conciliazione, misure in cerca di stabilità, si intitola il pezzo di oggi, con la legge di bilancio. Per il 2016 il governo punta a rifinanziare le disposizioni su congedi e maternità, che invece ora sono solo sperimentali per il 2015, per quel che rimane del 2015, diremo, avvocato. Direi però di cominciare con l'ABC di questo pacchetto. Intanto abbiamo già avuto la pubblicazione in Gazzetta? No, non ancora. Relativamente proprio ai sistemi di conciliazione vita-lavoro, cioè quelli di cui parliamo oggi, speriamo che sia come ha scritto Valentina Melis, cioè ci sia un rifinanziamento anche per il 2016, perché ormai, ha detto bene, manca poco tempo alla fine del 2015. Su questo sono stati trasmessi i testi alle commissioni lavoro Camera e Senato, quindi partiranno a brevissimo le audizioni. Dopo le audizioni torna al Consiglio dei Ministri il testo, che potrebbe tornare con qualche modifica, proprio perché il senso e la ratio delle commissioni lavoro è quello di dare pareri e proposte migliorative possibilmente, quindi aspettiamoci probabilmente qualche, speriamo, ulteriore soltanto piccola modifica. Certo. Perché comunque il testo e l'idea è sicuramente positiva. Hanno intercettato un po' il fabbisogno della popolazione, soprattutto delle mamme e dei papà, sicuramente in maniera trasversale, andando un po' incontro e quindi cercando di trovare un giusto compromesso, conciliazione vita-lavoro. Infatti, tra l'altro, Valentina ricorda che l'obiettivo di tutto questo pacchetto è proprio quello di innalzare il tasso di occupazione femminile, che in Italia ferma al 47%, con la riorganizzazione dei congedi parentali si mira un po' a fare in modo che questi permessi vengano fruiti per un lasso di tempo più lungo rispetto ai primi anni di vita del bambino, per cui si vuole permettere alle donne di ritornare nel mondo del lavoro, di fare dei percorsi di avanzamento nella carriera, senza invece assentarsi troppo nei primi anni di vita del bimbo, naturalmente sempre che questa sia la sua scelta. Esatto, condivido. Nel gergo del governo si chiamano misure per la conciliazione delle esigenze di cura vita e di lavoro, un settore molto delicato nel quale c'è sempre, lo dicevamo, un riflettore puntato dalle famiglie che affrontano, Nicoletta, no, la situazione nuova. Una famiglia che cresce. Esatto, che magari appunto si riorganizza, se cresce, arriva il primo bambino, quindi diciamo un po' la riorganizzazione proprio radicale, no? Avvocato Fava, andiamo per ordine. Il decreto interviene sul congedo obbligatorio di maternità per rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari, come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato, quindi casi estremi. Che cosa ci rappresenta questa novità, appunto? Sì, certo, è molto interessante tutto il decreto, e in pillole vorrei soltanto dire dove va a intercettare e intervenire, e quindi introduce ad esempio la possibilità di sfruttare il congedo facoltativo, che è sempre relativo al congedo obbligatorio ma successivo, dicendo che non può, lo porta fino a 8 anni del bambino, ma da 8 anni lo aumenta fino a 12 anni, quindi estende ulteriormente la possibilità di godere di questo congedo facoltativo. Oltre a questo è introdotta la possibilità di sfruttare il congedo a ore, interessantissima, grande novità, e quindi uno ha maggiore agibilità e quindi certo, va sicuramente maggiormente incontro alle possibilità delle mamme e del papà di stare anche coi figli. Oltre a questo c'è l'estensione dell'indennità di maternità agli iscritti alla gestione separata, quindi le famose lavoratrici autonome, quindi anche qui è intervenuto, quindi ottimo intervento, e porta anche delle agevolazioni per il telelavoro. Quindi queste sono in pillole le aree di intervento. Per tornare alla sua domanda, il provvedimento dispone ad esempio che i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum, quindi anche questo è molto interessante, non si perde niente, rimane in vita e può essere cumulato. Anche perché adesso è molto diffusa la prassi di una mamma che va in maternità dopo all'ottavo mese praticamente. Sì, se la gravidanza procede bene, esatto, molte donne optano per questa soluzione. Infatti, è giustissimo questo recepimento proprio di un desiderata dei fruitori, quindi le mamme soprattutto, e poi a seguire anche la questione i papà. Del parto prematuro invece come viene disciplinata? ordinata? No, anche questo, ad esempio nei casi di ricovero ospedaliero del bambino nato prima del periodo stimato, la lavoratrice nei 3 mesi successivi alle dimissioni del bambino, quindi quando il bambino viene dimesso dall'ospedale, ha diritto di chiedere la sospensione del congedo una sola volta per ogni figlio. Anche questa è una novità assoluta, prima non era possibile, oggi è possibile, quindi va sempre incontro a una miglior conciliazione vita-lavoro del bambino con la mamma. Allora sì, poi andrei alla spiegazione invece dell'altra parte che lei ci ha già anticipato prima come pillola iniziale, ma andrei a dettagliarla un po'. Passa da 8 a 12 anni la vita del figlio, il periodo entro cui i genitori possono fruire del congedo parentale. Quindi in questo periodo praticamente un genitore può chiedere l'astensione facoltativa del lavoro per un periodo totale che non cambia rispetto a prima, quindi abbiamo 10 mesi complessivamente. Esatto. Però prima poteva concentrarli entro i primi 8 anni di vita, adesso entro i 12 anni di vita. Esatto. Viene retribuito questo periodo di congedo, avvocato Fava? Viene retribuito, certo, viene retribuito parzialmente. Infatti ha detto benissimo, il decreto prevede questa estensione fino a 12 anni dell'età del bambino. La parte retribuita è parzialmente retribuita nei limiti del 30% e viene portata da 3 anni a 6 anni, quindi anche qui vi è un'estensione economica, direi importante, che aiuta la famiglia in generale. Per le famiglie meno abbienti, anche esatto, questo è molto importante, esatto, da sottolineare, quelle cioè con un reddito tendenzialmente inferiore ai 16.328 euro, questo beneficio viene esteso addirittura sino a 8 anni di età del bambino, quindi è importante insomma. E questa previsione viene estesa addirittura anche ai casi di affidamento e adozione, altra novità che non era prima contemplata, vero? Esatto, ed è sicuramente un aggiornamento, un'attualizzazione di riforme anche alla luce di normative europee esistenti, quindi allora, ci adeguiamo ai infatti tempi. 800 24 00 24, numero verde a disposizione degli ascoltatori per le loro domande. Già pronta Maria Grazia dalla provincia di Bergamo, che sentirei fra un attimo. Parleremo anche delle opportunità nuove, se si sono rafforzate, offerte ai papà. Ma avvocato Fava, volevo fare un piccolo focus sulla questione della disponibilità finanziaria per questi congedi, limitata al dicembre di quest'anno, quindi al 2015. Siamo già a giugno, mi chiedo chi ne potrà fruire nei prossimi 6 mesi. Non è che ci sarà poi una concentrazione, cioè il fatto di averla limitata non sarà qualche cosa che si ritorcerà come un boomerang nei confronti delle imprese del governo, perché chi potrà vedersi aprire una finestra di nuovi permessi li concentrerà tutti nei prossimi 6 mesi. Sicuramente la nota dolente, se vogliamo parlare di nota dolente, è proprio questo concetto di sperimentazione soltanto per il 2015, quando poi ormai siamo praticamente a metà 2015, quindi ora che passano i decreti in Commissione Lavoro, Camera, Senato, che torna al Consiglio dei Ministri, cioè insomma, restano 3 mesi, dai. No, esatto. Perché stavo pensando, una famiglia che ha un bambino di 9 anni, no? Sì, sì. Quindi gli 8 li ha già passati, adesso se il limite per ottenere il congedo si amplia a 12, non è che quest'anno per questa famiglia, oppure è già chiusa la partita? No, per fortuna con questa norma si riapre la partita, quindi avranno la possibilità di godere di questi benefici, e quindi è senz'altro positivo. Certo, dovranno farlo velocemente, perché ragionevolmente possiamo pensare a settembre, ottobre, novembre, dicembre, non credo molto, molto di più. A meno che già i 10 mesi non li abbiano già esauriti, appunto. Esattamente, nel esattamente, periodo precedente, esattamente, però magari così. Qualcuno qualche settimana vacante ancora l'aveva, non ne poteva più fruire, adesso si riaprono invece queste potenzialità, opportunità. Sì, potenzialità ci sono. L'abbiamo chiamata, dobbiamo sentirla. Buongiorno Maria Grazia, benvenuta. Buongiorno a voi, gentili signore. Grazie. In parte alla mia domanda avete già risposto, ma volevo dei piccoli chiarimenti. Sì. Io sono un'infermiera, lavoro in un'azienda pubblica del nord Italia, ho 4 figli. I più grandi sono già fuori dalla fascia prevista, ho altre 2 figlie di 9 e 5 anni, di cui ho ancora dei giorni non utilizzati di congedo parentale. Sì. Io sono sempre rientrata prima dell'anno di età, e questa è anche una piccola cosa che volevo portare, ed è un'esperienza a mio avviso positiva, perché entro l'anno di età, fino all'anno di età, si può usufruire, per chi fa il tempo pieno, di una sorta di riduzione, il famoso allattamento, e questo permette, ma il vostro esperto ne saprà più di me, di tenere questi benedetti congedi parentali fino ad ora fino ai 3-8 anni. La mia domanda era questa: io già da questo momento potrei usufruire per la figlia che ha 9 anni, in parte Deborah appunto ha già risposto, ha già fatto questa domanda, dei 10-16 giorni che mi rimangono fino ai 12 anni, certo, potrei inoltrare alla mia azienda questa domanda? Grazie. No, tra l'altro lei ospedale pubblico, no, mi diceva, sì, quindi bisogna capire Giovanni, anche se qua abbiamo una differenziazione tra il settore pubblico e il privato, avvocato Fava. Esatto, allora, attualmente i decreti non sono operativi, non sono efficaci proprio perché devono passare questi vagli, quindi non si può parlare di immediata esecutività e il pubblico tendenzialmente non è ricompreso, quindi bisognerà vedere a fine decretazione che cosa, qual è il testo definitivo, quindi chi va a intercettare come platea il testo definitivo. Se lavorasse nel settore privato, Maria Grazia, secondo lei questi 10 giorni che non aveva utilizzato per la terzogenita di 9 anni, adesso potrebbe invece rifare richiesta all'azienda? Esattamente sì, esatto. Senta avvocato, se si vuole fruire appunto di questi congedi, con quale modalità lo si deve comunicare all'azienda? Perché un altro tema molto importante è che si sono accorciati i tempi entro i quali l'azienda ci deve dare una risposta quando facciamo domanda per questi congedi. Esatto, questo è un altro aspetto molto interessante, molto innovativo, perché prevede un preavviso e il preavviso è veramente limitato perché si parla di pochi mesi in relazione proprio al preavviso da dare all'azienda, naturalmente chiedere questo preavviso con anche la certificazione idonea in tal senso. È veramente interessante, quindi ottima novità da questo punto di vista, che consente velocemente di poter avere una risposta immediata sul congedo parentale, fondamentale questo. Infatti no, è molto interessante anche il tema del part time, poi magari ci andiamo nella seconda parte della trasmissione, perché se tu lo chiedi l'azienda deve dirti sì o no nel giro di poco e non è una cosa di poco conto, perché darti subito l'opportunità di fare un part time significa che magari certamente l'azienda può anche far comodo, no? Ma economicamente parlando, visto che mi fa questo gesto avvocato, che implicazione ha questa scelta? Ha detto benissimo, è sicuramente comparando i due strumenti, congedo parentale e part time, è più favorevole anche economicamente il part time, perché il part time io percepisco la retribuzione direttamente dal datore di lavoro oltre ad avere una copertura contributiva, mentre il congedo parentale lo percepisco dallo Stato sostanzialmente, quindi è sicuramente più favorevole il part time. Sì. Andiamo a Lucca? Sì, certo, volentieri. C'è Claudio, buongiorno. Claudio, buongiorno. Benvenuto. Salve, buongiorno a tutti, buongiorno avvocato. Io ponevo questa domanda. Io sono un libero professionista e la mia compagna praticamente è sotto regime dei minimi, praticamente diciamo quasi una sola, per modo di dire. Quindi lavoratrice autonoma comunque. Autonoma, esatto, però sotto regime dei minimi praticamente diciamo che è più la rimessa che il guadagno al momento, ecco, perché purtroppo il lavoro è com'è. Nel mio caso, io sinceramente congedo parentale, esempio scritto in Asarco, penso che non mi spetti neanche, tra virgolette. Voglio sapere quali opportunità potrei avere dallo Stato nel mio caso, via, ecco. Claudio, allora, qua le notizie da dare non sono propriamente ottimali, mi pare. C'è qualche cosa, qualche notizia? Allora, andiamo proprio al tema papà in termini generali, avvocato Fava, poi vediamo per Claudio. Sì, ci sono delle opzioni. In termini generali, per i lavoratori autonomi è stato proposto qualcosa nel decreto, quindi vediamo cosa dice, salvo poi verificare cosa resterà definitivamente nel decreto. Per il papà in questo caso è previsto ben poco, nel senso che è previsto per la mamma lavoratrice professionista un intervento sicuramente un intervento parziale, ma altro non si poteva fare. Infatti è previsto un congedo di massimo 3 mesi durante i quali questo è stato previsto anche per le donne, e poi magari lo vedremo, le donne che hanno subito violenza di genere. Sì. Mentre per le lavoratrici autonome, queste possono fruire di un congedo di maternità fino a 5 mesi, che è un periodo durante il quale percepiranno un assegno. Su questo non c'è ancora certezza, quindi insomma bisogna vedere quanto. Mi pare che l'aspetto interessante sia che lo percepiscono anche se l'azienda non avesse versato i contributi, si incarica in questo caso lo Stato, l'INPS, no? Di erogare questa indennità. Esattamente, è un'anticipazione che viene fatta. Però insomma, per il papà, sì, lavoratore autonomo, non ci sono proprio, o libero professionista, nessun tipo appunto di congedi da cui poter fruire. Claudio, qua si figuri un po' tutto questo pacchetto sperimentale solo per quest'anno, figuriamoci se potevano farci entrare qualche cosa per il libero professionista. Magari faremo questa battaglia con Nicoletta per mi i papà, anche perché qua dipendenti sono sempre meno, ovviamente si indirizzano sempre di più lavoratori sulla strada del lavoro autonomo, perché le assunzioni ovviamente sono quelle che sono, ma qua se non li si aiuta in qualche modo ad andare su questa strada. Allora, che facciamo? Borse o andiamo avanti? Magari sentiamo Nadia, così riflettiamo sulla risposta da darle. Nadia, benvenuta, e poi le rispondiamo dopo la pausa. Benvenuta. Grazie. Sì, ci dica. Ah, ecco. Volevo chiedere all'avvocato una cosa. Ho sentito prima che si parlava di estensione della possibilità di congedo parentale pagato al 30% dai 3 anni attuali ai sei anni di età del bambino. Volevo sapere da quando entra in vigore, nel senso che io ho una bimba che compie 3 anni il prossimo dicembre e quindi teoricamente dovrei, ho ancora un lungo periodo, circa 4 mesi, perché mi sono astenuta veramente poco dal lavoro, sono lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, se effettivamente posso anch'io, che ho avuto la bambina prima, sfruttare fino a quando lei avrà 6 anni ancora questo tempo che mi manca, questi 4 mesi, quindi spalmarli sui prossimi 3 anni e mezzo di vita della mia bambina, percependo il 30%. Entro dicembre, però. Con valore entro il dicembre di quando compirà 6 anni. Allora, le leggo cosa scrive Valentina Melis sul Sole 24 Ore di stamattina, Nadia. I punti cardine del decreto legislativo di attuazione del Jobs Act, che sono quelli che ci ha indicato anche prima l'avvocato Fava, con le misure per la conciliazione fra le esigenze familiari e il lavoro, è atteso fra oggi e domani sulla Gazzetta Ufficiale. Non appena viene pubblicato in Gazzetta, entra in vigore il giorno successivo, per cui da lì, avvocato Fava, scatterà l'ora X per i lavoratori che vogliono fare richiesta all'azienda. Chiediamo a Nadia di aspettare qualche giorno. Esatto, dobbiamo aspettare per forza la pubblicazione in Gazzetta, il giorno dopo è immediatamente esecutivo, quindi dopodiché si può fare tutto quello che si vuole in funzione del decreto. E adesso dobbiamo andare ai mercati. Andiamo. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Cuore e denari. Giulia, torna subito qui, sei tutta bagnata. Non voglio lavarmi i denti. Michi. Michi, finirà che ti cresceranno i funghi in bocca. Bene, così la si comprano al supermercato. Giulie, esci di sotto il letto. Cammina. Io non voglio andare a letto, io non voglio andare a letto. Michi, va a dormire. Sono già stato ieri notte. Beh, è una scena classica, Deborah, un capriccio da manuale. I bambini in questo sono degli artisti. C'è arte nel capriccio. Se cercate sul dizionario la parola capriccio trovate voglia o idea stravagante o bizzarra, perseguita sia pure non a lungo, con ostinazione o cocciutaggine. E ancora, pensiero o invenzione artistico-poetica che abbia del bizzarro e anche del nuovo e dell'originale. Allora, care amiche, cari amici, avete artisti a casa che vi intrattengono con pianti, urla, strilli, piedi puntati? 800 24 00 24. Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica, ci dice: ne ho due. Benissimo, intervenite, raccontateci il repertorio dei vostri figli e anche che fate durante e dopo le loro esibizioni, diciamo così. Rimanete senza parole, urlate anche voi, cercate un punto di incontro, aspettate che finisca. Che cosa vi dice la vostra esperienza? 800 800 24 00 24. Ci confronteremo tra poco con due esperti. Ma come può un esserino così piccolo fare una puzza così grande? Oh mio Dio, non lo so, è sconvolgente. Dammi un'altra pannolina, è proprio cacca. Oh. Non la dobbiamo anche lavare? Eh certo, dobbiamo anche pulirla. Dammi un po' di ovatta. Sì. Dai, dai. Oddio, è disgustoso, è invasato alla cacca. È appiccicosa. Ci vorrebbe qualcosa, un liquido detergente. Il dopo barba va bene? Oh, per favore, Michael, dammi un pannolino piuttosto. Allora, accudire un bebè richiede tempo e impegno e per qualcuno non tanto pratico. Con la gestione di certi momenti un po' delicati della vita del bambino, insomma, ci vuole anche tanta pazienza. Conciliare maternità o paternità con il lavoro a volte è un'impresa difficile. Questa mattina nella prima parte di Cuore Denari stiamo facendo il punto sulle ultime novità introdotte dal Jobs Act sulla disciplina dei congedi parentali. Come ricordavamo, le conoscevamo già molti di questi punti, ma ne abbiamo avuto anche il varo del decreto attuativo di questa parte della riforma del mercato del lavoro, entro qualche giorno la pubblicazione in Gazzetta, quindi provvedimenti operativi e l'opportunità per chiedere a molti genitori nelle nuove forme congedi parentali. 800 24 0024, numero verde per tutte le vostre domande. Antonella, avvocato Fava, questa mattina con noi, ci chiede di dare qualche spiegazione in più sul tema delle adozioni. Che cosa c'è da dire? Perché Antonella ci chiede: nel caso di adozione valgono le stesse regole, a novembre scadono i 3 anni dall'ingresso in Italia, presumibilmente dei bambini che Antonella adesso ha preso con sé. Posso usufruirne anche dopo? I miei figli hanno 9 e 11 anni. Ma sicuramente la novità di questo decreto sta proprio nel fatto che le agevolazioni sui congedi parentali vengono estese anche ai casi di adozione e affidamento, quindi sicuramente potrà sfruttare, utilizzare queste agevolazioni normative ed economiche. Quindi è certamente un'ipotesi che può ripercorrere, potrà seguire. Certo. Come avvocato Fava, lei qual è la parte che ritiene più interessante di questo pacchetto sui congedi, sulle opportunità per i genitori di chiedere permessi? C'è anche il tema del permesso ad ore, che adesso andiamo a spiegare, perché in realtà da molto tempo ne parliamo, ma in questo caso non avevamo mai avuto attuazione di questa parte, appunto, della, non mi ricordo se l'avesse contemplata la riforma Fornero o quale altro pacchetto. No. Perché del congedo da ore sono già anni, appunto, che ne parliamo. Adesso si reinterviene di nuovo e anche questo è un tema piuttosto interessante, perché mi ricordo che anche qua a Radio 24 qualche mamma di bambino piccolo mi aveva chiesto qualche chiarimento, ma diciamo c'è tutta la parte relativa all'approvazione dei contratti nazionali di lavoro che aveva un po' bloccato. Certo, no? Certo. Avvocato Fava, questa parte. Giustissimo. Direi l'impianto normativo è tutto interessante da questo punto di vista, perché va veramente incontro a una miglior vita e lavoro, quindi conciliazione vita lavoro, quindi sono interessanti le disposizioni che valgono per i lavoratori subordinati, le lavoratrici, i lavoratori subordinati, ma comunque c'è un primo ottimo interesse anche per le lavoratrici autonome. Oltre a questo, la possibilità di trasformare in part-time il congedo parentale, anche questo è molto interessante ed è una novità assoluta, perché prima, in passato, non era possibile utilizzarlo. L'estensione dei tempi e l'estensione anche della copertura economica è importante, perché inevitabilmente tante volte si fanno i conti sì con la normativa, ma poi se non vi è un'adeguata proporzione economica diventa complicato. Mi concentrerei, cioè a me piace molto personalmente la possibilità di trasformare in part time e poi, come dicevo un attimo fa, anche a ore. È molto importante, perché il part time, a mio modo di vedere, ma credo che sia condiviso anche da chi ci ascolta e poi dalle fruitrici reali, è importante perché dà la possibilità di rimanere comunque legati al mondo lavorativo senza allontanarsi troppo e di concerto seguire i propri figli. Quindi sicuramente un'ottima soluzione di compromesso. Oltretutto si ha anche una copertura economica, quindi è importante, no? Teoricamente, per i casi che abbiamo sentito prima, per esempio, se non mi ricordo l'ultima ascoltatrice che abbiamo sentito, ci raccontava che le rimangono una decina di giorni ancora da poter sfruttare teoricamente, che erano i residui, appunto, del periodo precedente precedente, teoricamente questi 10 giorni, ammettiamo che siano 10 giorni di congedo teorico complessivi, possono diventare 20 mezze giornate di part time. Dal esatto, lavoro, esatto, no? Sarebbe molto interessante. Infatti, teoricamente, anzi praticamente, mi pare di capire che l'aspetto anche interessante sia che una volta che tu fai la richiesta al tuo datore di lavoro, ti deve decidere se concederti questa opportunità nel giro di 15 giorni. Sì, esatto. È tra sempre stato così, cioè, perché fare una richiesta di part time, non credo che la prassi sia così banale. L'azienda ci deve anche studiare un attimo se gli conviene o no mettere un dipendente in part time. Dice benissimo, in passato non c'erano dei termini così rigorosi, salvo che qualche contratto collettivo di categorie di primo livello, addirittura accordi integrativi, prevedessero una qualche disciplina, ma raro. Quindi non essendoci una tempistica precisa, era lasciato un po' alla libertà delle parti e, se vogliamo, quindi alla capacità discrezionale del datore di lavoro. Oggi dare una tempistica certa sicuramente fa bene sia al datore di lavoro che ai lavoratrici, ed è una misura che bisogna senz'altro salutare con favore. Per quello che riguarda invece il congedo a ore, come funziona? Certo, interessante anche da questo punto di vista, perché si ha la possibilità di frazionare a ore un congedo parentale che prima era previsto in una tempistica mensile sostanzialmente. Quindi va molto bene a favore delle mamme e dei papà, delle mamme soprattutto, che hanno bisogno e hanno le aiuta anche sul posto di lavoro da questo punto di vista. Quindi vi è questa possibilità. Tra l'altro, questa possibilità deve essere spesa con un preavviso, e il preavviso è veramente molto molto veloce, perché per quanto riguarda il congedo parentale su base oraria ci sono 2 giorni di preavviso, mentre per quanto riguarda il congedo parentale su base mensile ci sono 5 giorni. Il congedo a ore è cosa diversa da un permesso, perché sì, si può chiedere un permesso magari direttamente nella medesima giornata di lavoro. Io stasera non posso venire perché... Certo, certo. Il congedo ha una natura diversa, deve essere chiesto appunto 2 giorni prima. Abbastanza, dai, un preavviso di 48 ore, sì, ce sì, lo possiamo sì. fare. Infatti, ce la possiamo fare. Quante ore si possono chiedere? 1, 2, 3? Non c'è un limite, proprio perché giustamente la ratio lascia alla disponibilità della diretta interessata di concerto col datore di lavoro. Ecco perché ci bisogna del preavviso da questo punto di vista, per mettersi d'accordo. Quindi diceva bene, è diverso dal permesso il congedo, anche se nella sostanza tendenzialmente l'obiettivo è lo stesso, però comunque è diverso perché impegna un po' di più l'organizzazione aziendale soprattutto. Insomma, però è un pacchetto abbastanza variegato. Bisogna un attimo mettersi di impegno per cercare di intercettare l'opportunità che si ha per il proprio caso. L'ultima telefonata con la quale chiudiamo questa parte di Cuore Denari è quella di Elena da Siena. Ritorniamo un po' su un tasto dolente, che è quella del lavoro autonomo. Avvocato Fava, Elena, benvenuta. Sì, buongiorno. Io chiamavo perché io sono mamma di 3 bambini e quando l'ultima volta nel 2011, l'ultima maternità, sono una lavoratrice autonoma, una libera professionista, partita IVA, ho avuto una maternità tipo obbligatoria di 5 mesi con un assegno pari all'80% di una media, insomma un conteggio che mi era stato fatto. Sì, certo. Volevo sapere se questo decreto in qualche modo dà nuove opportunità, perché comunque ci sarebbe un gran bisogno, ecco, nella gestione della famiglia. Elena, suo marito che lavoro fa intanto? Mio marito è un dipendente, però è un dipendente quadro e non... Non c'è molto. Avvocato Fava, Elena, sì, dobbiamo così spegnere ogni tipo di speranza. Abbiamo anticipato che sicuramente il decreto è importante perché va incontro anche alla popolazione delle lavoratrici autonome, ma la possibilità di assentarsi per le lavoratrici autonome è limitata appunto a un congedo di quello obbligatorio pre-postparto, esattamente, più questa indennità di maternità prevista con un assegno, e vedremo in base alla iscrizione alla gestione separata INPS. Altro non c'è molto, se non anche la possibilità possibilità, ad esempio, per le lavoratrici autonome che scelgano l'adozione internazionale. Non è il caso dell'ascoltatrice, però è una cosa importante per chi per quelle mamme lavoratrici autonome che dovessero optare per adozione internazionale e non abbiano altre forme di previdenza obbligatoria. Allora in questo caso verrà istituita una gestione separata INPS per andare incontro anche a questo caso, ed è giusto che sia così. Perché? Perché è stato previsto sull'adozione e affidamento relativamente alle lavoratrici subordinate. E allora, per capirci qualcosa di più, per prendere definitivamente confidenza con tutto questo, noi non possiamo che augurarci che diventi tutto strutturale, non solo limitato ai prossimi 6 mesi, e che tutto questo pacchetto si chiuda nel dicembre del 2015, perché sennò insomma hai voglia a incentivare un pugno di mesi. Esatto. Avvocato Fava, grazie per essere stato con noi. Buona grazie giornata a voi, e buon lavoro. A tutti. Ci ritroviamo presto, magari per altri punti del Jobs Act molto interessanti. C'è tutto il pacchetto del demansionamento, che so che appassiona molto l'avvocato Fava. Cercheremo c'è di capirne lavorare. Qualcosa di più. Esatto. Che tu che cosa hai intenzione di fare adesso? Allora, invece? Mi piacerebbe andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi salutare gli ospiti della seconda parte di Cuore Denari, con cui parleremo di capricci. State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Cuore e denari. Capriccio di mattina, la pioggia si avvicina. Capriccio a mezzogiorno, meglio togliersi di torno. Capriccio micidiale, giornata assai speciale. Capriccio di sera, buonanotte, poi si spera. Una filastrocca tratta dal libro Capricci, che passione, di Giusy Quarenghi e Chiara Carrer. Sì, li conosciamo tutti i capricci, perché prima di essere adulti siamo stati tutti bambini. Non si può essere bambini senza fare i capricci. Tra l'altro i capricci servono, aiutano a diventare grandi e anche a far crescere i genitori. Ma intanto salutiamo i nostri ospiti. Parlando di bambini, non poteva mancare Alberto Pellai, medico, scrittore, psicoterapeuta e ricercatore in igiene e sanità pubblica all'Università di Milano. Buongiorno Alberto, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, ogni bambino ha il suo repertorio. Tu di bambini ne hai 4 e non hai che l'imbarazzo della scelta. Diciamo che hai un programma molto ricco. Quindi, quali sono i classici di Casa Pellai? E lo chiediamo naturalmente anche a chi ci sta ascoltando, perché c'è chi è esperto in strilli, chi in silenzi, chi in bronci, chi in sceneggiate, chi punta i piedi. Beh, direi che ci sono i capricci del genere voglio tutto, oppure ci sono i capricci del genere qui comando io, ci sono poi i capricci tra fratelli, cioè quelli che poi ritornano al genitore dicendo lui mi ha fatto questo, lui mi ha fatto quello. In una famiglia numerosa come la nostra ci sono più situazioni relazionali in cui è possibile che il bambino non riesca a controllare la sua rabbia, oppure abbia una forte sregolazione emotiva, o entri in una zona di conflitto col genitore per affermare un bisogno che non sa gestire in altro modo. Allora, benvenuti. Oggi scriviamo le prime pagine di un manuale di capricciologia. 800 24 00 24, potete anche raccontarci i capricci che facevate voi quando eravate bambini. Quindi naturalmente il nostro numero verde è aperto anche a chi non ha bambini, ma è stato bambino. In linea con noi abbiamo anche il piacere di avere Roberta Cavallo, consulente genitoriale, formatrice specializzata nella fase della crescita e autrice insieme ad Antonio Panarese di Smettila di fare i capricci, Mondadori Edizioni. Buongiorno Roberta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, anche buongiorno al dottor Pellai. Roberta, spesso di fronte ai capricci i genitori vanno in crisi, no? Vorrebbero proprio farli smettere, possibilmente all'istante, ma non ce la fanno. D'altronde è dimostrato che tutte le conoscenze che uno può avere, che cerca di usare quando ha a che fare con i propri figli, non hanno successo quando si devono affrontare i loro capricci. Quindi voi nel vostro libro raccontate i capricci di vita quotidiana, perché questo è il primo messaggio: i capricci fanno parte della quotidianità, anche se noi genitori ne faremo volentieri a meno, o almeno ne vorremmo un po' di meno. Assolutamente sì, anche i bambini probabilmente ne vorrebbero un po' meno, anche perché più ci si prepara per noi genitori e più alla fine questi capricci rischiano di spiazzarti tutte le volte, rischi di essere sempre impreparato. Ed effettivamente è un peccato che riempiano la quotidianità, perché già il tempo che abbiamo a disposizione oggi purtroppo è sempre meno, quindi siamo costretti a utilizzare il poco tempo a disposizione cercando di aumentare la qualità di questo tempo, vorremmo farlo, ma molto spesso ci troviamo invece a dover gestire i loro capricci, quindi a dare delle regole, alzare la voce, cercare di farli smettere, magari ci mancano gli strumenti giusti per farlo, ma per fortuna insomma i capricci si possono risolvere nel migliore dei modi. Magari si riesce anche ad arrivare a farsi evitare che si generino i capricci. Allora, vi mettiamo subito alla prova e abbiamo in linea con noi Deborah. Abbiamo già in linea con noi Antonella da Viterbo. Vediamo subito il primo caso. Raccogliamo casi di capricci e poi magari cercheremo di fare l'hit parade del capriccio più bello. Antonella, buongiorno. Buongiorno. La mia bambina si chiama Lucrezia e lei ogni volta che io le nego qualcosa oppure le chiedo di mettere a posto, perché è molto disordinata, si cambia 4 volte al giorno e lascia tutti i vestiti in giro. A sei anni appena compiuti. E lei comincia a piangere perché non lo vuole fare. E quando io poi le faccio capire che lei ha sbagliato, che quindi comunque questa cosa non si può fare, lei comincia a piangere e dice non smette fin quando io non la consolo e le dico che non è poi così grave, che alla fine la cosa è risolvibile. Nel senso, vabbè, adesso non ti preoccupare, hai capito, e la prossima volta non lo fai. Poi la prossima volta lo fa. Certo. Di nuovo, però per quel momento. Però la cosa che mi fa tanto caso è il fatto che lei dice non ci riesco più a smettere di piangere. Allora, grazie Antonella. Facciamo un consulto. Prima Alberto Pellai. Alberto, vorrei, siamo molto sintetici, in 2 mosse come affronteresti questa situazione, soprattutto qual è l'interpretazione che dai, e poi passiamo a Roberta. Ma direi che probabilmente cambiare lo schema di questo che sembra essere diventato un comportamento abituale è quello di vieni che insieme mettiamo a posto i tuoi vestiti, cioè fare invece di trasformare quella richiesta in uno scontro, farla diventare proprio un gioco di squadra, in modo che la bambina acquisisce un'abitudine con la mamma e non contro la mamma, e a quel punto poi può farla anche da sola, sempre lodando poi il risultato finale. L'altro aspetto che mi sembra significativo è che nel capriccio poi succede proprio questo: quando si attiva in modo così potente un'emozione, l'emozione poi si sregola e il bambino non riesce più a contenerla. A quel punto diventa proprio un flusso quasi ininterrotto, che è come dire bisogna far ridiscendere tutta la curva della rabbia fino a che dopo molto tempo trova di nuovo pace per poter rientrare in contatto col bambino e poter ripensare a quello che è successo. Roberta, Antonella ci racconta che la sua bambina si mette a piangere fino a quando la mamma non la consola, minimizzando un po' il motivo di questa sgridata. È un atteggiamento abbastanza frequente? Non è frequente, in verità l'atteggiamento di Antonella dal mio punto di vista è assolutamente corretto. Noi oggi abbiamo a volte l'abitudine, magari per condizionamenti ricevuti dal passato, di cercare di bloccare il pianto, magari di dire al bambino no, non piangere, smetti di piangere, ma che cosa è successo, dai, non è così grave. Invece l'ideale è accogliere l'emozione del bambino, quindi cercare di comprenderlo, magari di abbassarsi a lui e accoglierlo, abbracciarlo, accarezzarlo, dirgli che tranquillamente può piangere, che se c'è qualcosa che l'ha fatto star male, che l'ha spaventato o l'ha preoccupato, insomma in generale qualcosa che l'ha frustrato, può assolutamente concedersi di liberare l'emozione. Proprio come diceva il dottor Pellai poco fa, questo aiuta a far discendere questa curva emotiva ed è molto importante, perché i bambini più si sentono accolti più poi riescono a trovare la forza la prossima volta per dire per esempio alla mamma mamma non ho voglia di farlo adesso, oppure mamma facciamolo insieme. 800 24 00 24, ci sono anche le ore dei capricci, Alberto, classico il momento di andare all'asilo, sì. di andare a scuola oppure alla sera prima di andare a fare la nanna, e poi ci sono bambini che non vogliono sentire ragioni, continuano a giocare, non vogliono staccarsi dalla PlayStation. Oggi cercheremo di non ci sono metodi, vero Alberto, però bisogna mettersi un po' nei panni del bambino senza per questo venir meno ai nostri compiti, perché i bambini hanno comunque bisogno di avere accanto degli adulti competenti, non degli adulti che si fanno bambini. Di questo parleremo dopo il nostro GR, a cui diamo volentieri la linea. 800 24 00 24, mettetevi in contatto con noi, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Cuore e denari. E quello cos'è? La borsetta. Una borsa con la cosa orrenda. A me piace, però dentro ci sono le cose mie. E che cosa ci vuoi fare? Io me la voglio portare. Non ti metterai a fare un capriccio adesso, guarda che non è il momento. Fa lo stesso, tanto io me la porto. Silvi. Senti Silvi, adesso basta, eh? Fa lo stesso. Ah, fa lo stesso, eh? E torniamo a parlare di capricci. Ogni età al suo capriccio, dopo capriccio si diventa grandi. Quello che noi genitori spesso consideriamo come un incidente di percorso è in realtà per il nostro bambino un potente strumento di comunicazione. Ne stiamo parlando con Alberto Pellai, che non avrebbe bisogno di essere presentato perché ha cuore denari e di casa, medico, scrittore, psicoterapeuta e ricercatore in igiene e sanità. E abbiamo una new entry, è Roberta Cavallo, consulente genitoriale, formatrice specializzata nelle fasi della crescita e autrice insieme ad Antonio Panarese di un libro che vi invitiamo a leggere, si intitola Smettila di fare i capricci. Abbiamo tante telefonate. Tantissime, no, stavo anche leggendo il messaggio di questa ascoltatrice che ci racconta di sua figlia che in piena notte si accorge di non avere l'elastico nei capelli e piange perché vuole il codino, anche adesso che ha i capelli corti e non lo usa più. Chissà che cosa vuol dire. Allora, andiamo alle telefonate. Telefonate, ma intanto voglio chiedere ad Alberto e a Roberta di che cosa hanno bisogno per dare una mano concreta ai nostri ascoltatori. Alberto. Ma direi che, tanto per cominciare, di adulti che sanno rimanere tranquilli e che si sentono proprio adulti autorevoli di fronte a un capriccio del bambino. Il capriccio quasi sempre, quando in realtà poi diventa problematico da gestire, si trasforma in uno scontro di potere tra un bambino che in realtà va sostenuto e tenuto da una competenza adulta che è lì con tranquillità a fare proprio il suo mestiere, cioè quello di genitore. Roberta? Quello che ho notato nella pratica è che aiuta moltissimo nel momento del capriccio riuscire subito ovviamente a mantenersi tranquilli e ad accogliere l'emozione del bambino, quindi andare da lui e dirgli: amore, che cosa è successo? Dimmi, raccontami, sono qui per aiutarti, dimmi che cosa senti, sei arrabbiato, mamma mia come ti sei arrabbiato. Ecco, questo aiuta molto il bambino a sentirsi subito più tranquillo e accolto. Roberta, qual è l'errore da evitare? L'errore da evitare è quello di, se forse anche la cosa un po' più difficile da fare, soprattutto all'inizio, quello di perdere la pazienza. Quindi di entrare in crisi, perché come diceva anche il dottor Pellai, questo fa sì che il bambino percepisca una mancanza di sicurezza, come dire: oddio, io sono in crisi, se anche tu vai in crisi e ti metti un po' al mio livello, qua la situazione chi la risolve? Io ho bisogno che mi aiuti. E poi soprattutto il bambino si sente subito in errore. Invece abbiamo bisogno di stimolare nel bambino l'autostima, di stimolare la sicurezza e di dargli l'esempio che le cose si possono risolvere nella pratica. Andiamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Dove mi porti, Deborah? Ti porto a Milano da Giovanni. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Come se la cava lei? Esatto. Ma, col suo artista? Allora, noi abbiamo una bambina di 4 anni che l'argomento della domanda, e poi abbiamo un bambino di 13 che è ancora un pochino presto. Noi pensiamo di essere genitori che gestiscono molto bene i capricci, nel senso che ci mettiamo alla sua altezza, gli parliamo, cerchiamo di spiegargli il perché di un eventuale rifiuto a una sua domanda. Però ci troviamo in crisi di fronte al capriccio quando non c'è tempo per gestire il capriccio. Del tipo: la mattina io la porto a scuola, io alle 7:30 devo essere in macchina per andare al lavoro, altrimenti arrivo tardi. Lì scatta il capriccio e non c'è materialmente il tempo per gestirlo il capriccio. È vero, Giovanni, perché richiede tempo a mettersi lì, dimmi, ti accolgo, senti. Ci sono dei momenti in cui, e loro lo sanno, bene, Alberto. Qual è il momento cruciale? Sì, un po' quello certo. Che avevi detto anche tu, Nicoletta, prima del GR, cioè ci sono proprio dei momenti in cui i capricci sono più frequenti e perciò però per noi genitori più prevedibili. Se io so che quella zona lì, cioè il momento dell'uscita da casa per andare a scuola, è un momento critico e in realtà dentro un po' anche la fase della separazione, questa è la vera fatica del bambino, io mi posso un po' alleare con lui già la sera prima, cioè domattina, quando sarà il momento di uscire da casa, proprio sulla porta con te che sarai pronto, io ho una piccola sorpresina per questo bambino che deve uscire e che deve correre sulla macchina del papà, la potrai scoprire solo in quel momento. Cioè, questo significa dire che al bambino, che io so che quello magari è un momento difficile, però io mi sono già attrezzato per fartelo diventare invece un momento in cui io e te facciamo squadra e a te succederà una cosa inaspettata ma bella invece di quella cosa così prevedibile ma brutta che tutti conosciamo. Giovanni, provi e poi ci faccia sapere. Scriva Cuore Denari. Proviamo domani mattina. Vito, buongiorno dalla provincia di Sondrio, 800 20. Cosa è successo? È il telefono che ha fatto i capricci. Il telefono si è incapricciato. Vito? Dobbiamo assolutamente richiamare. C'è però la testimonianza di Jessica su Facebook, se vuoi poi te la dai, leggimela. Due gemelli di 4 anni. Il capriccio più frequente è quello del stare da solo. Se uno dei due in una passeggiata rimane indietro, anche se solo di 3 metri, si arrabbia e inizia il capriccio del sono da solo e pretende che non lo si aspetti, bensì che si retroceda al suo punto per poi proseguire insieme. Insomma, il tono del suo messaggio è questo. Roberta. Sì, spesso i bambini fanno i capricci o come quello descritto dalla nostra ascoltatrice proprio perché sono carenti di base, magari di attenzione, quindi approfittano proprio per esempio di stare da soli, richiamare l'attenzione e pretendere che il genitore vada da lui. Il suggerimento che mi sento di dare è quello di assecondare ed eventualmente anche anticipare. Se sappiamo che questa è la difficoltà del bambino, quello che può aiutare in altri momenti della giornata è quello di creare dei momenti esclusivi magari per lui, rispetto magari all'altra sorellina o al fratellino, in modo che questo vuoto, questo bisogno venga sanato e il bambino non abbia bisogno di creare per forza delle situazioni limite che portano poi al capriccio per attirare per forza l'attenzione su di sé. E quindi pretendere delle azioni da parte del genitore, quindi sembrare anche un po' un piccolo tiranno. Roberta, nel vostro libro c'è un capitolo dedicato ai bisogni supremi dei bambini. Voi scrivete che se non vengono assecondati, ascoltati e soddisfatti, se il bambino non riceve le giuste attenzioni, imparerà a prendersele e quindi a fare i capricci. Ma quali sono questi bisogni? Sì, i bambini hanno bisogno in generale di essere ascoltati molto, accolti nelle loro emozioni, di sapere che noi per loro ci siamo e li amiamo qualsiasi cosa facciano, anche quando sbagliano, quando combinano qualche marachella, li amiamo lo stesso, li amiamo sempre e diamo loro la possibilità eventualmente di rimediare. Questo può sembrare un luogo comune, sembra di fare filosofia anziché di dare cose pratiche. In verità anche insomma, se iniziamo a provarlo e a sperimentarlo, notiamo che più diamo ascolto ai bambini, più li osserviamo, più li ascoltiamo e più i capricci in automatico regrediscono, perché riusciamo ad andare subito ai loro bisogni profondi, tra cui anche c'è quello per esempio di dare le regole o dire dei no, perché a volte il dubbio è ma cavoli, se faccio così poi il mio atteggiamento è troppo molle, è troppo... Brava, questo è un po' il pensiero, che sia poco educativo, che rimaniamo praticamente in balia dei capricci dei nostri bambini, gli assecondiamo troppo. Esistono invece la necessità di dire dei no e di dare delle regole ben precise. Alberto, assolutamente sì. Concorde anche Alberto? Io credo che poi il bambino si senta davvero protetto da un adulto tranquillo e autorevole che gli ha fatto capire che alcune cose si fanno perché in realtà servono proprio a lui. È così. Con me vicino tu ti senti davvero più forte, non perché io sono più potente, ma perché ho dentro una competenza che in automatico ti trasmetto nel mio modo di stare con te. Alberto, abbiamo parlato dei bisogni supremi dei nostri bambini, ci sono anche i bisogni dei genitori? Ma certo, i bisogni dei genitori sono quelli che spesso poi vanno proprio in crisi nel momento in cui scoppia un capriccio, perché di per sé poi il capriccio è proprio quella zona in cui la sintonia tra l'adulto e il bambino si frantuma e si sgretola, perché il genitore ha dentro probabilmente una programmazione sulla sua fretta, sui suoi impegni, sulle sue priorità, e il bambino invece ha un altro tempo, altri bisogni, altre priorità. Allora, quando il genitore sente che gran parte dei capricci del bambino stanno proprio in una zona in cui il bambino cerca di fargli capire sei troppo stressato, sei troppo di fretta, forse una cosa che può fare lui, l'adulto, è dire: hai proprio ragione, questa mattina il papà è veramente troppo di fretta, non ha tempo e quindi io non ce la faccio. Io penso, che ne so, mio figlio Pietro, gli dico: guarda Pietro, stamattina hai proprio ragione a essere così un po' insofferente, perché il papà è veramente impossibile, ha troppe cose da fare, troppo di fretta, ma ti prometto che questa sera recuperiamo. Ecco, già questo significa dire al bambino: ho capito quello che mi stai dicendo ed ho proprio capito che io sono in una posizione troppo lontana da te. Cioè, i capricci, abbiamo detto che ogni tal suo capriccio. Un ascoltatore ci ha scritto al 349-238-6666 che i capricci non finiscono mai. Abbiamo aperto la puntata con un sms appena arrivato quando abbiamo lanciato il tema di un'ascoltatrice che ci scriveva: parlate anche dei capricci degli anziani, con mio figlio tutto bene ma con mia mamma una tragedia. C'è un'età in cui il capriccio cambia un po' messaggio, Alberto? Cioè, se fino ai 6, 7, 8 anni possiamo ancora definirli capricci, quando si presentano nella fase dell'adolescenza sono capricci o sono altri messaggi? No, sono proprio tutta un'altra cosa e sono bisogni di autonomia, di separazione, di autodeterminazione, che spesso però i genitori continuano a gestire invece con la stessa modalità di quando quel ragazzo che adesso ne ha 12 o 13 aveva invece 5, 6 o 7 anni. Ecco, quella è la zona in cui lo scontro, il conflitto con un figlio impone di cambiare lo stile, il modo con cui gli si sta di fianco. Invece molti genitori fanno così fatica a cambiare che davvero mettono poi il figlio in una sorta di cortocircuito. Fa delle cose, chiede delle cose per diventare più grande e si trova di fronte a genitori che non riescono a cogliere il messaggio che c'è dentro alle sue richieste e che anzi lo trattano ancora peggio di quando era un bambino, e lì lo scontro diventa quasi irrisolvibile. Quindi le sfide per i genitori non finiscono mai. 800 24 00 24, apriamo ai capricci di tutte le età. D'altronde, genitori non si nasce ma si diventa, e il capriccio è una piccola grande sfida che dobbiamo imparare ad affrontare. Andiamo ad Anna che ci chiama da Roma, buongiorno. Poi ricordiamoci di ridare il libro perché gli ascoltatori lo chiedono. Sì, lo facciamo. Ed è anche una bellissima foto. Molto carina, sì. Smettila di fare i capricci di Roberta Cavallo e Antonio Panarese, gli autori di bestseller letti da 50.000 famiglie italiane. E nella quarta di copertina c'è scritto come fargli spegnere senza pianti la TV, l'iPad o il computer, come convincerlo a riordinare la cameretta, come fargli lavare i denti e le mani senza i soliti tira e molla, come fargli fare tutti i compiti senza urla e minacce. Insomma, direi che è un libro male. Magico. 800 24 00 24. Anna. Forse abbiamo... Ah sì, Anna, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la risposta che potrete darmi. Io volevo dire che ho un nipotino di 6 anni che è stato molto coccolato dalla mamma all'inizio, poi purtroppo per lavoro ha dovuto assentarsi e adesso addirittura sta fuori anche fino a 2-3 giorni e per poi tornare. Grandi abbracci eccetera, poi il bambino resta sempre sulle sue. Nel frattempo devo dire ha avuto anche una bimba che adesso ha 4 anni e che è molto più, come dire, è molto più allegra, molto più aperta eccetera. Lui invece si chiude e ostacola qualsiasi cosa, non vuole camminare, non vuole andare all'asilo, non vuole lavarsi le mani, e fa i giochi e dice: quando ho finito di giocare vengo a mangiare. Ogni cosa è un pretesto, una per trattativa, insomma. Ecco, per fare una, esatto, trattativa. Il problema è che non c'è sempre la mamma, ci sono io e poi quando c'è la mamma lui continua a fare così. E con lei storia. Invece Anna come si comporta? Ma lui, io cerco di farlo ragionare, cerco di spiegargli bene tutte le cose, sembra che mi stia a sentire, poi dopo mi risponde: sì, però io adesso faccio questo e poi faccio come dici tu. E andiamo avanti così, è una fatica immagino immane. Allora Anna, facciamo così, un intervento rapido di Alberto Pellai. Da quanto mi ha raccontato Anna, Alberto, questo bambino insomma ha un po' potrebbe avere tanti motivi per mandare questi messaggi, no? Sì, la cosa, forse la percezione che ho un po' io è come se lui avesse perso proprio il suo posto, il suo ruolo, la sua funzione per tanti motivi diversi. Quindi io invece di stare lì a contrattare ogni singolo passaggio, ogni singolo momento, proverei a inventare per lui piccoli momenti esclusivi dove l'adulto di riferimento fa solo con lui delle cose molto belle, anche solo andare insieme a prendere un gelato al pomeriggio io e te, e in qualche modo glielo ricorda, gli dice stai tranquillo, guarda, ricordati che che oggi pomeriggio fra 3 ore io e te faremo questa cosa, che dovrebbe aiutarlo proprio un po' a tranquillizzare quel bisogno che invece vede irrisolto e insoddisfatto e su cui continua ad attivare gli adulti che ha intorno a lui. Allora, io vorrei raccontarvi in breve, cioè anzi ve lo leggo, un messaggio che racconta un po' anche un pensiero che si legge negli SMS. Un ascoltatore ci scrive: io 50 anni fa non ricordo di aver avuto tutta questa tolleranza verso i capricci, ma ora noto di avere ben chiari regole e doveri. Un po' meno noto questa consapevolezza nei giovani d'oggi. Insomma, l'avevamo appena accennato, ma ci ritorniamo e ci ritorno con Roberta Cavallo. Questo modo di accogliere il bambino, di ascoltarlo, viene interpretato un po' come un atteggiamento poco educativo, anzi rischia di tirare su, di allevare secondo alcuni dei tiranni che usano il capriccio anche per mettere in scacco i genitori, soprattutto sono abbastanza furbi, lo fanno nei momenti, no, strategici, quando si deve andare a scuola piuttosto che al supermercato, quando c'è pubblico intorno, in modo che riescono ad ottenere quello che vogliono. Insomma, c'è uno zoccolo duro di ascoltatori di Cuore Denari che prende un po' le distanze da questo atteggiamento. Alcuni suggeriscono addirittura una bella sculacciata e poi il bambino si convince. Roberta. Sì. Sicuramente il bambino, allora, da un lato c'è la nostra difficoltà come adulti di trovare il giusto equilibrio, quindi ad oggi facciamo difficoltà a trovare un equilibrio tra l'essere autorevoli quando magari bisogna dire di no o dare delle regole, mantenere il nostro ruolo e nello stesso tempo riuscire a essere accoglienti. Abbiamo sempre paura di esagerare o da un lato o dall'altro. Quello che noto è che i bambini vanno spesso in crisi non tanto per questa mancanza di elasticità, ma in quello che nei genitori di oggi, non tutti, ma nella maggior parte, è una sorta di insicurezza di fondo che noi non abbiamo. Abbiamo la sensazione che ci manchino le risorse giuste, abbiamo spesso la sensazione di sbagliare, di non fare bene per i bambini, diamo una risposta ma non siamo sicuri della risposta che abbiamo dato, spesso addirittura deleghiamo a loro, chiediamo a loro in continuazione che cosa vogliono mangiare, a che ora vogliono uscire, che cosa vogliono fare. E questo a volte viene percepito come una mancanza di sicurezza. Allora il bambino dice: qua qualcuno di sicuro ci deve essere, se non lo percepisco dagli adulti che sono con me, allora forse me la devo strutturare io questa sicurezza. Ed ecco che si instaura un po' quel meccanismo che viene definito come un meccanismo del bambino tiranno, se così possiamo dire. In verità questa cosa ci fa apparire un bambino molto sicuro di sé, che domina, che vuole sempre dire la sua. In verità poi dentro, prima o poi, la fragilità del bambino viene fuori. Ed ecco che qui si innescano poi a volte i pianti deliranti, puntare i piedi, dire sempre no, per cercare il modo di evacuare questa frustrazione, perché per il bambino è una responsabilità troppo grande da portare. E che, come dicevamo poco fa, le regole e i no vanno assolutamente dati, ci mancherebbe, i bambini li vogliono, a volte è soltanto una questione del come. Allora proviamo a fare questo esercizio, se avete seguito la puntata, se siete d'accordo, provate a mettere in pratica i suggerimenti di Alberto Pellai e di Roberta Cavallo, autrice di Smettila di fare i capricci. Datevi tempo, una decina di giorni, e poi raccontatecelo, scriveteci a Cuore Denari, che leggeremo sicuramente la vostra mail e magari torneremo sul tema. Grazie ad Alberto Pellai, grazie a Roberta Cavallo. Grazie a Marco Lombardi, Zotta Scenne, Carmelo Lauricella. Una Carmela con un barbone. Stamattina, insomma, ne combino un po'. A domani. A domani.